Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Buongiorno Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Ecco, professor Cassese, lei dice che le intercettazioni sono il nuovo oppio del popolo. Perché? Ma le faccio un esempio. Tutti si attirano la loro attenzione sulle intercettazioni, ma ci sono grandissimi problemi in Italia: sanità, scuola, strade, traffico. Sono i problemi che hanno tutti i cittadini. Qual è la proporzione tra quello che ci dicono le intercettazioni e quello che sono i veri problemi del paese? Ecco, ma professore, quindi in qualche modo si può dire che i giornali non ci raccontano i problemi veri del paese, mi sta dicendo? Sì, perché attirano la nostra attenzione su questioni di giustizia e di moralità che spesso sono minori rispetto a quelle maggiori. Come ha detto un grande giurista americano, noi italiani abbiamo un concetto sentimentale della giustizia. Senta, giornalismo e politica, quindi in questo senso sono diventati autoreferenziali? Guardi, io ho l'impressione che i giornali oggi abbiano un problema di ridefinire quello che nelle imprese si dice la propria missione, il proprio scopo. Perché capisce, le informazioni oggi arrivano da tante parti, quindi il problema dei giornali è quello di selezionare, orientare, giudicare, valutare, aiutare le persone a capire. Ecco, professor Cassese, ma a proposito dell'orientare, il problema non è solo dei giornalisti, io penso che è un problema di chi pensa di influenzare il dibattito con temi che non sono strategici, cioè c'è uno scopo in questo oppure no, secondo lei? Che ci sia uno scopo, ma certo c'è una deviazione. Le faccio semplicemente un esempio: il tema dei vitalizi. Sì. È un tema che attira tanta attenzione, ma chi si pone un problema del tipo sono giusti i vitalizi, sono giusti in questa misura, quanto pesano rispetto ad altre squilibri della giustizia che ci sono? Certo. È giusto togliere qualcosa che le persone hanno maturato nel tempo? Sono tutte domande sulle quali si discute così, come in modo superficiale, ed emotivo, come diceva lei. Insomma, funziona questo dibattito, funziona un po' come una grande arma di distrazione di massa, possiamo dire. Sì, perché ci sono troppi temi di scarso interesse e troppi pochi temi di grandissimo interesse che dovrebbero stare al centro dello spazio pubblico, dell'opinione pubblica. Quindi in qualche modo è l'ora di riformare anche l'irriformabile, cioè la giustizia. Ma guardi, certamente, ma il fatto è che il tema della riforma della giustizia è sempre visto come un tema della riforma che piomba sulla testa della giustizia. Certo. Dovrebbe essere una riforma che parte dalla stessa giustizia, gli stessi certo. Magistrati possono fare moltissimo. Dovrebbero essere loro. Ecco, lei in un'intervista sul Foglio, molto interessante, ha fatto l'esempio del libro di De Bortoli proprio in questo tema. Nei passaggi importanti sui poteri forti è stato completamente ignorato a favore di quel pettegolezzo sul caso Boschi, Banca Etruria. Ecco, sono diventati utili anche a questo, inutili anche per questo i giornali? Senta, il caso del libro di De Bortoli è clamoroso, veramente sì. È eclatante, perché quello è un libro che dà una valutazione molto critica del nostro paese, dell'assenza di un vero potere pubblico e anche di forti poteri privati. Noi abbiamo bisogno di ambedue. E tutti parlano di 5 righe, sì. Che invece riguardano un piccolo episodio, certo. Tra l'altro indicato in maniera molto rapida, insomma, sì. Perché non era al centro del libro di De Bortoli. Certo che no. Ecco, ma anche in televisione però assistiamo a un problema di questo genere, la discussione infinita tra le lotte fra direttore generale, consiglio di amministrazione e presidente, però nessuno parla del merito, cioè del destino del servizio pubblico e soprattutto di cosa deve fare e perché. Guardi, purtroppo siamo tutti attirati dalle lotte dei galli che si beccano tra di loro e nessuno si preoccupa della sostanza delle questioni. In effetti sul tema della RAI nessuno è riuscito a capire qual è l'oggetto del contendere. Esattamente. Insomma, ecco. Ecco, professor Cassese, in un certo senso non abbiamo più cittadini, ma solo consumatori di rancori e di smarrimenti. Questa è la sensazione che si ha leggendo la sua intervista. In termini concreti questo vuol dire che siamo sempre molto poco informati mentre vogliamo essere tutti più partecipi, ma non siamo informati perché non esistono quelle che si chiamano le politiche pubbliche, quindi l'indicazione degli obiettivi, la formulazione delle proposte, il dibattito intorno alle proposte. Arrivano delle leggi così che sono come delle astronavi che ci piombano sulla testa. Certo, poi uno scopre magari che sono delle follie, penso al bail-in o qualcosa del genere, ma sempre a babbo morto, diciamo, sì, così, sì, sempre quando tutto è finito. Preparati ad essere, senza essere partecipi. Ecco, ma quanto ha pesato secondo lei, professor Cassese, in questo scenario abbastanza desolante il fallimento del referendum del 4 dicembre? Beh, il fallimento del referendum ha messo una pietra tombale sulle speranze riformatrici, sì. Questo è il vero problema, cioè c'è un'implicazione ulteriore, non è stato soltanto non ci piace Renzi, non è stato soltanto non ci piace questa riforma costituzionale, è stato anche 30 anni di discussione intorno alla riforma dei rami alti delle istituzioni sono stati inutili. È come se fosse passata l'idea che le istituzioni in qualche modo sono irriformabili, non c'è niente da fare. Sì. Diciamo, noi sappiamo che peraltro, anche se non a dosi massicce, delle riforme dovrebbero essere fatte con una cura continua. Delle buone medicine giorno per giorno forse ci salverebbero. Ci salverebbero, però bisognerebbe partire naturalmente dai dati reali. I dati reali invece vengono ignorati. Faccio un esempio, si parla della ripresa italiana, ma se andiamo a vedere i numeri parlano, che segnalano un nanismo italiano, più 1% salutato come un miracolo, la Spagna fa più 3 per esempio. Questo è un punto, i dati reali, come dice il nostro amico Mario Secchi, i numeri parlano. Sì, questo è un problema, si può riassumere così, noi camminiamo, gli altri corrono e noi camminiamo lentamente con un bastone, quindi come dire, dobbiamo imparare a correre. Ecco, imparare a correre, però la sensazione è che giriamo a vuoto, perché appunto viviamo di intercettazioni, di talk, di scandaletti che vivono il loro momento clamoroso e poi spariscono nel nulla, come è giusto che sia, ma intanto si gira a vuoto. Sì, perché siamo un po' tutti smarriti, diciamo la verità, una classe politica che non riesce a raggiungere un accordo, l'assenza di vere finalità del paese, l'attenuazione delle istanze riformistiche, il senso delle istituzioni che sono mal gestite, l'impressione che i comuni, le regioni siano tutti quanti istituzioni zoppe che camminano lentamente o che addirittura non aiutano il cittadino, e il fatto che le strade sono in condizioni penose, non parliamo di Roma e così via. Senta professore, il professor De Rita del Censis qui da noi ha descritto il paese come un paese stanco e smarrito. Ecco, mi pare che anche lei sia un po' su questa linea. Sì, sono su questa linea perché penso che noi dovremmo da un lato aumentare la produttività. È chiaro che la qualità istituzionale dipende molto dalla produttività individuale delle persone. Noi dovremmo forse lavorare un po' di più e per esempio pensi alle possibilità che avrebbe il turismo. Certo, soldi, enorme. Di dati che ci comparano con la Francia, e noi abbiamo un numero di addetti nello stesso tempo e un tasso di occupazione veramente molto più basso rispetto alla Francia. Ecco, ma questo significa un'assenza alla fine di classe dirigente? Purtroppo sì, non abbiamo una vera e propria classe dirigente perché la nostra classe dirigente è raccogliticcia, abbiamo da un lato delle strutture pubbliche di cui i vertici non sono mai stati curati, non c'è stato mai nessuno che come De Gaulle e De Brenne nel 1946 hanno creato l'ENA. Certo. Il settore privato, come lei sa, la grande industria è praticamente scomparsa, è sparita in Italia. Sì. E la politica, sappiamo tutti i giorni le polemiche che ci sono sul modo in cui sono selezionati i politici. Quanti politici, certo, non hanno fatto nessuna esperienza nella vita reale, certo, hanno cominciato a far politica al terzo liceo? Certo, un po' presto. Senta professore, sulla legge elettorale lei cosa prevede? che non si riesca a raggiungere nessun accordo e che andremo con due leggi diverse, come dire, risultato quasi inesorabile anche del fallimento del referendum, perché se il popolo vuole avere due rami del Parlamento, forse deve anche accontentarsi di avere due diverse leggi elettorali. Ma secondo lei il popolo ha capito che voleva due rami del Parlamento quando ha votato? Probabilmente il popolo ha votato in quel pro modo, contro Renzi. Appunto, probabilmente ha votato sostanzialmente contro chi proponeva l'iniziatore, insomma, no? Che aveva detto che ci metteva la faccia. Ecco, professor Cassese, un'ultima cosa, ma l'Italia invece avrebbe bisogno o no, secondo lei, di una grande coalizione con un grande piano di riforme per uscire dalla palude? Ma non credo che ne abbiamo bisogno, saremo costretti ad avere una grande coalizione e l'unica cosa che io penso che vada bene è quella di vedere l'esempio tedesco. L'accordo di coalizione era di circa 138 pagine, cerchiamo definiva di scrivere tutto, 138 proprio pagine con degli accordi precisi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, ti ho visto preso dall'incontro fra Papa e Trump. Quanto è durato? 30 minuti, più di quello quindi, che era previsto. Quindi qualche cosetta in più. Abbiamo detto 20, 30, esatto. Si discuterà per quattro pagine di giornali su cosa significa questi 10 minuti in più. Però è un segnale. Ma un segnale, no, è un fatto. 10 minuti in più, avevamo due o tre cose segnale in più da dirsi. Vabbè, senti. Comunque, a proposito di quello che diceva Cassese, molto interessante. Ecco, sì, interessante. Tu dici sempre, effettivamente, richiami sempre all'onestà della realtà attraverso l'importanza dei numeri. Sì. Perché questo paese non ama questo realismo? Questa è una domanda a cui è veramente difficile rispondere. Anche qua rispondo con un fatto. Siamo agli ultimi posti delle classifiche OCSE per conoscenza delle materie scientifiche. Matematica, ovviamente. La discussione sui vaccini, per esempio, è un classico esempio di, no, di manipolazione di dati e di ignoranza su che cosa è veramente cosa sia la scienza. La realtà però è inesorabile, questa è la cosa che diciamo mi consola tra virgolette, cioè arriva. Poi o prima o dopo arriva. Ecco, Pietrangelo, ma questo fatto che prevalentemente, diceva Mario, l'ignoranza, diciamo, della formazione scientifica prevalente della nostra classe dirigente, che prevalente ovviamente avvocati o letterati, gente di lettere, è un problema per poi capire una realtà complessa come quella di oggi? Beh, è un problema anche perché intanto c'è una precisa volontà politica. Se è venuta a mancare la grande industria, è venuta a mancare perché ci sono state delle scelte anche internazionali che hanno imposto all'Italia di stare a cuccia, di non potersi consentire più di avere per esempio l'industria chimica, di non essere presente nel mercato internazionale. E poi ci sono delle scelte che stanno alla base, anche forse nella stessa struttura del sistema Italia. Vorrei fare un esempio che mi ha colpito particolarmente in quest'ultimo periodo e su cui non c'è stato assolutamente discussione. È stato chiuso, cioè non è stata data la possibilità al Twiga di Flavio Briatore di aprire in Salento. Non è un fatto di costume, è un fatto rivelatore di un andazzo. D'accordo. Che svela quello che poi è il destino degli uomini del fare in tutto il sud, i quali si trovano davanti a un bivio: o finire in galera, perché comunque un cavillo per sbattere in galera si trova, oppure essere ammazzati dalla criminalità. Il fatto stesso che il Twiga, che avrebbe portato visibilità, soldi e lavoro, è una grande possibilità di lavoro, sia stato impedito, è un esempio chiave perché altrimenti non si spiegherebbe come mai in Versilia può sopravvivere e non al sud. Quali sono i cavilli, i problemi? È un'impostazione di sistema che inevitabilmente porta ad affossare l'economia. Però ha un baricentro nella classe dirigente locale. Ma la classe dirigente locale, non è che nasce, la classe dirigente locale in tutto il sud non è nient'altro che uno dei tanti sfoghi dell'unica industria possibile, che è il pubblico impiego. Non avendo la possibilità di vincere un concorso per diventare, funzionario dell'anagrafe, allora si candidano per avere assistenza assicurato un ruolo. Purtroppo il destino è stato stabilito proprio molto tempo fa. Ecco, adesso vi raccontiamo proprio su questa chiave, vi raccontiamo una storia che è molto particolare, una storia di vera follia burocratica, quella che ha colpito Serafino Preda di 95 anni. Una vita dedicata alla patria, si è arruolato nel 42, è stato mandato in guerra in Russia, dove è tornato per miracolo con due schegge di mina piantate uno in una gamba, l'altro in un polmone. A lui, reduce di guerra, è arrivata una lettera dell'INPS che gli ha revocato il mini assegno di 8 euro. Ecco, al telefono abbiamo con noi Lucio Preda, che è il figlio 62enne bancario, figlio di Serafino. Ecco, con quale motivazione è stato revocato l'assegno di 8 euro a suo padre? A me chiaramente, quando mi sono recato all'INPS, motivi validi non me l'hanno mica andato. Non gliel'ho andato. Mi hanno detto, se ti è arrivata quella lettera lì, vuol dire che va bene così. Poi dopo approfondite ricerche, si è scoperto che c'è un'applicazione della legge Fornero. Della Fornero, ecco. Nei giorni scorsi l'INPS, oltre a cancellare questo contributo, ha fatto anche di peggio. Cioè ha richiesto indietro a suo padre anche i soldi versati nell'ultimo anno. Beh, non ha fatto neanche quello sforzo, gliel'hanno tolti di iniziativa. Perfetto, benissimo, bravo. Ma quanto ammonterebbero i soldi che suo padre deve riconsegnare, più o meno? Quanto gli hanno tolto? Ha riconsegnato 203 euro qualche cosa, perché gli è stata revocata l'indennità di ex combattente, pur essendo un mutilato e invalido di guerra al 100%. Perché lui è stato ferito dove? Era in prima linea sul Don, nelle vicinanze di Rostov. Sì. E sono entrati in pattuglia notturna in un campo minato e sono saltati per aria. E quindi dopo di notte ha aspettato qua un po' di ore di notte. E chi l'ha salvato poi? Salvato gli arditi, che sono venuti a prenderlo. Anche per fortunato che è caduto a bocconi, a pancia in giù, perché così facendo il sangue che usciva dai polmoni è riuscito a essere espulso e non altrimenti sarebbe morto soffocato nel suo sangue. Certo. Senta, il suo padre Serafino questa notizia come l'ha presa? Beh, certamente non bene. Lo credo. Si è sentito umiliato probabilmente, no? Sì, perché già dare un valore di una vita o di una morte a 8 euro è qualcosa di ridicolo. Se poi dopo viene commisurato con i vitalizi dei parlamentari, gli altri lui dovrebbe prendere dei milioni di euro, non 4.000 euro. Certo. Senta, le schegge che sono rimaste, una nella gamba e l'altra nel polmone, naturalmente hanno reso molto difficile la vita di suo padre. Beh, di sicuro non una vita normale. Tant'è vero che anni fa, diciamo, le ragazze del paese venivano informate per dire non sposate quello lì perché è già nell'ondato. Per fortuna che invece ha trovato sua madre. Ha trovato mia madre e diciamo ha trovato anche dell'acciaio buono, dai. L'acciaio che c'aveva nel corpo era buono. Senta, ma le spese mediche voi avete ricevuto dell'aiuto oppure no dallo Stato? No, mai. Niente. Tipo, mai. Ecco. Oltre al vitalizio, certo. Come vitalizio, come invalido di guerra civile, vitalizio per invalido di guerra, certo. Al di là di questo niente. Tu ecco, mio padre, ecco, no? Ma con una storia così alle spalle, vissuta direttamente in prima linea per tanti anni, lei che cosa pensa di questo Stato? Più di questo Stato penso chi ci governa, perché è fatto da... E poi dopo noi siamo l'espressione, i nostri politici sono la nostra espressione, non so cosa pensare, penso bene anche di me stesso. Però quando vedo che gente che siede in una poltrona decide se togliere o meno dei soldi alla gente che ha rischiato la vita, non certamente per loro, perché non c'è nato volontario in Russia, c'è stato il mandato con una baionetta alle spalle. Certo. Per 8 euro di indennità, qualcheduno si prende dei vitalizi, forse certo. Perché semplicemente per essere un parlamentare e forse per fortuna ha fatto poco anziché far danno facendo qualcosa. Cioè questo non è bello, devono pensare prima di votare certe cose. Certo. Fa molto più comodo pescare con poche lire, con pochi euro a tanta gente piuttosto che a chi dovrebbero pescare. E beh, 8 euro, un assegno, un mini assegno di 8 euro a 95 anni ritirato dall'INPS, davvero, vabbè, la burocrazia ha una fantasia straordinaria, diciamo, possiamo, Però a partire da questo momento, proprio adesso che abbiamo ascoltato la testimonianza, appunto, della tua intervista, cambierà inevitabilmente, altrimenti sarà proprio da impazzire riguardo al fatto che la macchina burocratica confida nell'impossibilità dei cittadini di poter avere parola, confida nell'obbligo obbligato rispetto a manovre che succedono chissà in quanti ambiti, in tantissimi. Poi ovviamente c'è da aggiungere un altro dettaglio, se posso consentirmi un punto di vista criminale e di rammarico criminale. È la controprova che la patria non esista. Beh, sì, dal punto di vista organizzativo, dice. No, no, neppure nel sentimento, neppure nel sentimento diffuso, perché qualunque omino della macchina burocratica di fronte a un reduce di Russia avrebbe dovuto prendere il foglietto e andare dal capo ufficio e rinnovare la pratica. E dire, cara Fornero, però, questa... scusa, adesso ti faccio parlare subito, e dire, cara Fornero, la conseguenza arriva fino qua, forse una riflessione in più andava fatta. Perché manca il sentimento diffuso. No, però, e torniamo al punto di partenza dell'intervista di Cassese, cioè consapevolezza, cultura, conoscenza. Probabilmente l'omino di cui tu parli non sa niente della campagna di Russia, molto semplice, non ha studiato, probabilissimo. Non ha neanche idea che degli italiani sono andati lì a morire, che alcuni poi sono non è neanche con detto, le schegge, chissà, capito? Cosa c'è scritto sul foglio che toglie gli 8 euro, no? Perché anche questo, cioè il burocratese dice che questo qui è un regio che ha fatto base, oppure cosa racconta? A meno che peggio che mai il tutto sia affidato a un computer, al famoso algoritmo. Algoritmo, per favore, questi 8 euro ridaglieli, ti prego. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo oggi? Eccola. Well, are we going out tonight? We could go to yours, you could come to mine. I got no money for the pub, no. Could probably scrape enough for the bus, though. Yeah, and why that time to be alive? Four bottles down my neck and I'm feed them for e in metropolitana cosa capitava? Oggi piedi pestati, perché le ninfe, le belle ragazze desiderose solo di sorrisi, arrivavano ondeggianti su tacchi garbati, pestavano inavvertitamente i calli dei fauni, borbottoni e però tutto un ridere e tutto un ancheggiare. Ha chiamato Dioniso, ha voluto questo brano per Andromaca, con un messaggio: hai lo stesso battito di ciglia di Penelope. Ma e niente baci oggi? Niente baci. Sì, però nascosto. Si sono dopo si sono baciati. Come i baci definitivi di Pietrangelo Buttafuoco, che sono tutti raccolti in un libro che è uscito, che è, appunto, ci onora di raccogliere, elaborare. Com'è il titolo? Tutti questi viaggi. I baci sono definitivi. I baci sono definitivi. Fai bene. Hai capito? Allora vai con la bolla intanto che guardi. Grazie. E noi sono preso da... sto sfogliando il libro di Pietrangelo, volevo parlarvi del Papa, questo è Perfect Strangers, no? E quindi l'incontro tra Trump e il Papa, forse un po' tra perfetti stranieri, perfetti sconosciuti, perfetti che sono imperfetti però, perché questi baci sono veramente definitivi. Vabbè, però insomma, diciamo, il collegamento con Trump e Papa è proprio tirato per i capelli. No, non c'è proprio, però cosa vuoi che ti dica? Sono colpito, linea A, a Lepanto, ore 13. Vabbè, dai. Vabbè, Obelix fa cose da... Obelix fa cose da pazzi. Compratelo, altrimenti un fulmine vi colpirà. I baci sono definitivi di Pietrangelo Buttafuoco. L'incontro tra il Papa e Trump, caro Giovanni, come abbiamo preannunciato poco fa, è durato abbastanza, 30 minuti. Devo dire, grande cerimonia, stavamo sbirciando qua e là durante la nostra diretta. Posso dire, una grande regia di Viganò, che è dietro tutto. Il Monsignor Viganò è quello che gestisce da dietro le quinte tutti questi eventi papali. Stupenda. Adesso ha costruito molto, su molto questo bella, molto una bella. Si sono scambiati i doni, ovviamente, un messaggio di pace da parte del Papa. Erano entrambi molto rilassati, non so se anche tu hai avuto questa impressione dopo l'incontro. Certo, ho visto un Papa che mi è sembrato perfino un po' dimagrito. Sì, anche a me, sorridente, che fosse andato bene. Speriamo, nell'interesse dell'umanità. È stato il primo passo, però, se posso dire, l'incontro più atteso per capire meglio è quello che avverrà, quando sarà, tra Trump e Putin. Naturalmente, sono cose diverse, ma che secondo me hanno una relazione anche. Sì. Non escludo che ne abbiano parlato. Tieni il Papa presente che e il Papa, Trump, il Papa con Putin c'ha un rapporto credo abbastanza serio. Certo, basti ricordare quello che è accaduto, che è fondamentale e importante, il viaggio della reliquia di San Nicola, che è partita da Bari ed è ritornata nella madre patria. Lo stop al bombardamento in Siria. Poi sarà importante capire anche che cosa si sono detti, faranno filtrare qualcosa, anche nell'incontro col segretario di Stato, Parolin, Trump, che Gallagher. Forse è uno dei grandi tessitori. Sì, ecco, sì. Salamino! Tutti dicono bau bau. Allora, il programma è questo: chiusura del Palio di Siena e dure sanzioni alla Spagna finché non metterà fine alle corride. Ha già il 20% dei consensi, perché i sondaggisti misurano così corrida. Il peso del nuovo partito animalista, nato da una costola di Silvio Berlusconi, insufflato dalla musa di fauna più che di flora, ovvero Michela Vittoria Brambilla, e sollecitato dalla fidanzata di lui, Francesca Pascal. Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi e con loro tutta la consorteria toscana possono già dire addio al Palio di Siena, perché, come ha detto bene la Brambilla, loro dove stanno? Loro stanno dalla parte della nota lobby. Ecco, quella delle doppiette. Berlusconi comunque, dov'è? Nella vecchia fattoria, alla testa di Forza Italia, il suo partito in alleanza col partito animalista, che gli consente di liberarsi dall'obbligo di coalizione con la Lega di Salvini, con Fratelli d'Italia di Meloni, vincerà e stravincerà, e al Viminale e alla Farnesina, caro Mario, caro Giovanni, chi ci andranno al Viminale e alla Farnesina? Non lo so. Che sono delicatissime caselle del futuro governo, troverà quelli col quid e quindi metterà Dudù e Dudina. No. Altro che il cavallo di Caligola. Per esempio, in letteratura verrà bandito Hemingway. Nelle librerie non si troveranno più, perché esalta vecchio al mare. Esalta la mattanza nelle pieno di gatti. Esalta che cosa? Sua. Esalta la mattanza nelle corride. Certo. Trombe saranno per i tori più che per i toreri. Perché le corna dei primi faranno cornuti quest'ultimi, che di concerto con le nazioni più evolute nella salvaguardia dei diritti, saranno iscritti nell'elenco dei terroristi, come pure i domatori, i cacciatori, gli allevatori di polli, di conigli, di lepri, tutti schedati. E anche nell'arena, e anche FIFA e Arena, oltre che Sangue Arena, verranno tassativamente proibiti, non si potranno più vedere, saranno bruciate le pellicole, la polizia postale verrà responsabilizzata a vigilare affinché nessuno scarichi nei propri computer. Perché comunque i canuzzi, i micetti, i criceti e anche gli scorzoni, che sarebbero i serpenti, sono esseri senzienti, e nel nuovo governo degli animali, caro Giovanni, verrà avviata una nuova riforma: l'obbligo di reversibilità della pensione a favore dei quadrupedi, anche quelli con la coda piatta, e va da sé la quota ereditaria. Cari miei, caro popolo delle partite IVA, caro italiano moderato, dallo slogan meno tasse per tutti, vecchio slogan che fu, a croccanti per tutti, cani, porci, cavalli di Caligola, asinelli. E quindi un nuovo appello urge, mi collego a quello che dicevamo prima sulle sorti d'Italia: disoccupati del Mezzogiorno, precari di tutta Italia, cassa integrati di prima e seconda generazione, arrangiatevi, anzi no, abbaiate, un croccante arriverà, perché comunque questo è... Vabbè. Io due gatti che faccio? No, soprattutto la cosa grave di Pietrangelo è che ha dimenticato il cane di D'Alema. Non Ayace. Ne ha parlato Ayace, non Ayace. Ha parlato di Ayace, non è considerato cane. No, perché ormai quello il governo lo va a fare con Renzi. Il cane di D'Alema, giustamente, sta passando direttamente con la Torre, con Rondolino, con i vecchi del gruppo. E quindi allora, non volevo aprire questa piaga. Non volevi aprire questo gomito del tuo prezioso ragionamento. E allora andiamo con un'altra bolla, Mario. Sì. Un po' di bella musica, dai. Si balla. Questa notizia è vecchia. Tell me what you really like. Allora sentiamo questa bomba. Abbiamo una disputa con Minoli, adesso la risolviamo subito. Vai con questa bomba. Allora ti prendo e ti appendo, dicevano. Allora, il downgrade del rating cinese fa notizia e non fa notizia, nel senso che la Cina è in più 7% e con un debito molto alto già da tempo, quindi era attesa la decisione di Moody's. I mercati vanno così, ma la sconteranno. La cosa interessante in realtà è capire l'effetto che ha sulle materie prime, cioè, e in particolare sui metalli e sugli acciai, che sono i veri, no, la materia con cui si costruisce il futuro, con cui si fanno infrastrutture. Quindi quando vi raccontano di questa cosa del downgrade che abbiamo sentito al giornale radio, che abbiamo sentito così via, ma non ti hanno spiegato questo del merito di credito della Cina, dovete guardare le materie prime. Sì, perché? Perché lì si capisce se l'economia cinese sarà veramente forte da continuare a fare investimenti oppure no. E tu che le guardi, che punto stiamo? Secondo me andrà ancora forte per molti anni, è destinata a superare gli Stati Uniti nel... Cioè, ma tu credi che la globalizzazione alla cinese alla fine sarà più forte, cioè quella della via della seta sarà più forte di quella americana? Sì, perché c'è un fattore determinante, la demografia. Sono tanti, fanno figli, anche se adesso hanno, diciamo, anche lì qualche problema di questo tipo, e il mercato comunque in espansione è nel Pacifico, non è nel vecchio West, diciamo, nell'Occidente. Anche in America hanno un problema enorme di crescita demografica. Canzoniere. Nel cielo le nubi raffigurano la tua immagine. Il maestrale soffiando porta via le mie parole. Tu ne avverti il senso ed è verso te che volano. Dagli un aiutino, va? Un aiutino? Un aiutino. Certo. È uno che pensa a un'altra. Ah, uno che pensa a un'altra. Vabbè, sì, allora questo è un fatto eccezionale, effettivamente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Con questo aiutino le risposte si sprecheranno. Pubblici. Però Mix 24. Arabia Saudita, un paese misterioso, immerso nel deserto, grande quanto l'Europa occidentale, ma in possesso di un quarto delle riserve petrolifere di tutto il mondo. Scoprimmo le nostre immense riserve quasi per caso. In realtà stavamo cercando delle falde acquifere, ma lo stesso succede anche oggi. Cerchiamo l'acqua e scopriamo nuovi pozzi. Un paese che evoca immagini di ricchezza e di sfarzo e i cui protagonisti spesso sono i membri della sua famiglia reale. Ma dopo l'11 settembre l'immagine dell'Arabia Saudita nel mondo è cambiata per sempre. Quando si è saputo che dei 19 attentatori, 15 erano sauditi, è stata una catastrofe. Nel giro di un attimo Bin Laden ha trasformato l'Arabia Saudita, nella mente degli americani, in un paese nemico. L'America e l'Arabia Saudita hanno fatto un accordo molto semplice. Voi ci date petrolio a basso costo e noi vi offriamo protezione. Gli infedeli hanno invaso le nostre case. Ancora una volta siamo attaccati dai crociati. È arrivato il tempo per lottare e rispondere. I nostri tiranni hanno venduto la terra di Dio al nemico. La giustizia è stata calpestata. Oggi continuiamo il nostro viaggio nell'Arabia Saudita con la seconda puntata dedicata all'epopea dei Saud, la dinastia che da più di un secolo è alla guida del paese. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, sì, sì, ti faccio sentire Gordon. L'avidità. Non trovo una parola migliore e valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. No, cioè, Gordon è sempre Gordon, però c'ho... Questo, lo sappiamo, adesso per la tua gioia io ho un aggiornamento sulla Cina. Non ci posso credere. No, è fantastica, si sono arrabbiati moltissimo contro Moody's, hanno detto che il declassamento del debito sovrano è il risultato di una metodologia non appropriata che è stata utilizzata dall'agenzia di rating. Quindi la contestano. Ah, ma la contestano duramente, dice, sopravvalutano le difficoltà che affronta l'economia cinese e sottovalutano la capacità della Cina di approfondire le riforme dal lato dell'offerta e di espandere la domanda generale. È interessante come si è comportata la borsa. Guardate che questa cosa qua del downgrade è carina da guardare. Perché la borsa all'inizio ha perso moltissimo anche sui mercati. Poi sui ha mercati reagito la Cina. Poi ha reagito, ha limato praticamente le perdite. Te la dice lunga sulle motivazioni profonde dei movimenti in borsa. Che sono soprattutto emotivi. Certo. Perché la borsa, no, uno pensa c'è la borsa da sua, quindi c'è un bel libro pare dell'Harvard University sugli animal spirits che si agitano sul mercato. Spirits, esattamente. Senti, ce n'è una per te, Ulisse, ti scrive una cosa buttafuoco. Penelope questa mattina non mi ha detto niente. E infatti Penelope stava trafficando con Dioniso. Ah, era la storia. Ma sta Penelope, no. Però è un po' così. Era stata brava coi proci. No, ma era andata a comprare il libro, va dai. Lo ridiciamo. Pietrangelo Buttafuoco, i baci sono definitivi, il suo nuovo libro, La nave di Teseo. Bellissimo. Dentro. No, perché lui pubblica insieme a cosa? Come si chiama l'ex direttore a De Bortoli? A De Bortoli. Ma perché lui è importante. A Guido Brera. Mica, cioè, certo. È uno. Non scherzo. È nel mainstream, anche se dice di posso non dire essere, una cosa. Dai, posso approfittare del microfono? No. Posso ringraziare gli ascoltatori per questo libro. Vabbè. Non è possibile. Cioè, è riuscito a dire anche questo. Scusa. Ma tu l'hai letto, bravo. Giovanni? È tremendo. Tutti i giorni lo ascoltiamo. Noi lo sentiamo, lo sappiamo a memoria più o meno. Ieri in metropolitana, il cuore e l'anima se ne stanno seduti. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, febbraio 2017. Associazione tra pregresso trattamento antitrombotico con la severità dell'ictus. Si sa che la terapia anticoagulante previene l'ictus in pazienti con la fibrillazione atriale. È una condizione di rischio assoluto che frequentemente può provocare appunto l'ictus. Il problema è che spesso la terapia anticoagulante è scarsamente assunta nella pratica di tutti i giorni. Perché è una terapia, anche se adesso ci sono i nuovi farmaci, la terapia che è stata in vigore fino a pochissimo tempo fa, la terapia che aveva bisogno di controlli settimanali, bisognava andare in ospedale o in ambulatori, insomma era una roba abbastanza fastidiosa. E allora si è andati a vedere quanti tra coloro ricoverati per ictus facevano precedentemente male la terapia anticoagulante e quanto questa mancata terapia incidesse sulla severità dell'ictus e sui risultati poi a distanza di questa patologia. Sono stati studiati oltre 94.000 pazienti, divisi in chi faceva una terapia anticoagulante terapeutica, giusta dose e regolare assunzione, e chi no, e chi faceva solo la terapia antiaggregante, che è un'opzione anche che spesso molti scelgono perché è più semplice l'assunzione. Dei 94.000 pazienti, quasi 80.000, l'83%, non faceva una terapia adeguata, che conferma il dato che la gente, nonostante sia a rischio, nonostante abbia una fibrillazione atriale, non fa la terapia che previene poi l'ictus. E naturalmente chi invece faceva la terapia anticoagulante aveva meno ictus, moderato e severo, e la mortalità anche era inferiore. Ovviamente la conferma di quello che sapevamo. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ha scelto? Oggi una canzone per chi compete con tutti gli dei dell'Olimpo pur di essere un uomo. Lucio Dalla, Siamo Dei. Siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, povero uomo, non sei niente di speciale.